Antonè. Claudio, Claudio, sei all'ascolto? Troppo ecco. Adesso meglio, ma guarda un po'. Meglio, meglio. Claudio, ci sei? Quanto anni vuoi tagliare? 5. Ho la 10, ho la 10. Ci sei? Ho la 10, ho la 10, ho la 10. Chi c'è all'ascolto? Antonè, sei qua? Sì, ti ascolto. Più che altro io sto chiamando per vedere se entra, se entra Claudio, se l'ascolto qua. Sì, già stato se veglia già, anche di là. Da dove il coso è stato un ecco. Funziona bene, sì. Sì, sì, guarda, limitatamente al mio, al mio altoparlante, al mio baracchino, questo non ha smitter, ricordati, non ha smitter, è un aborto di baracchino, però funziona, riceve, trasmette. Sì, anche questo apparecchio qua funziona bene, la quando l'ho sistemato è perfetto, dare su una coroina, dare su quello. Scusate che vado in bagno, devo andare in bagno in fretta, ciao, a dopo. Ehi, a buona parte, accetta domestica. Claudio, Claudio, ci sei? Attenzione, canalo 10. Canalo 10. A chi vieni? Marco! È duro scappellato. E allora usalo per fare la proposta. Ho abbassato il volume, la pasta sta cuocendo, devo solo aspettare, devo controllare il sale perché il sale non so dosare, perché se è un pugnetto, cosa vuol dire un pugnetto? Un pugnetto mio può essere più grande o più piccolo di quello di mamma, eccetera. A me interessa sapere i grammi giusti di sale da mettere per due persone di pasta, capito? E un giorno mi farò il calcolo, dai. Sì, due, neanche mezzo pugno devi mettere, due persone. Infatti, un pugnetto scarso, perché a parte che ho messo più acqua del dovuto, ho messo un carace d'acqua. E vabbè, dai, non fa niente. Il sugo è pronto, il sugo pronto, e noi non, una volta facevamo anche il sugo in casa, adesso sughi pronti Barilla, tutti pieni di conservanti, mamma mia, non voglio saperlo. No, il sugo lo faccio io, lo faccio con la chimica, io lo prendo la salsiccia, ci metto la salsiccia. Oppure lo puoi fare anche con quella, quella giccia che vengono allo spi. Quella, beh, per fare la, la, la, la carbonara, capito? Lo metti in mezzo al sugo, esce un po'. Ehi, Antonetti, ti volevo dire, ricordati, quando senti questo bip brutto, vuol dire che sono io. Ogni tanto fare il bip, ogni tanto chiamerò nei giorni a venire, così vediamo se, se rientra qualcuno sul 10. Ok, ricordati, sto bitto è brutto che ce l'ha solo questo apparato. Sì, l'ultimo è quello, eh. No, beh, non è uguale uguale. Questo è l'Intec M150 Plus, quello famoso senza lo smitter, proprio ai minimi termini. Ah, ho capito. Ho messo bitto nel l'ultimo, ma il Viking 2 per esattamente. Il Viking 2 chiama così. Ah, forse sì, sì, il Viking, che cambiano appena appena appena, eccetera. Bene, va bene, comunque l'antenna, nonostante il vento terribile che c'era stato, non ha fatto una piega, non ha perso radiali, è rimasta tale e quale. Meno male, meno male. Questa volta l'antenna me la perdo. E invece... meglio così, dai. Vabbè, quello sì. la prossima settimana appena mi arriva la Geggio andiamo a mangiarci qualcosa. Ho voluto andare al, come si chiama, tu fammi, perché mi hanno dato 3 mesi, invece di marzo me l'hanno pagato ottobre. E gira gira volevano i soldi dietro, gli ho detto che andava a cagare all'inizio, gli ho detto. Prima cosa gli ho detto, sapendo che io non avevo quei 55 anni, gli ho detto che non faccio neanche accettarmi la domanda, invece me l'hanno accettata, mi hanno fatto 2 mesi e poi mi hanno bloccato la carta. E sono rimasto 6 mesi senza niente. Adesso ho fatto un'altra domanda, quella me l'hanno accettata, mi hanno detto in pratica gli ha detto, capisce? Quella puoi farla anche se non c'è 55 anni, e ti la dirà subito, fino a arrivare ad aprile, che poi c'è il reddito di cittadinanza, è un automatico, che a quanto sembra fa, che arriva il foglio alle porte, figurati di casino. Quindi ti arriva direttamente dal foglio alle porte, e ti sei andato a casa tua, e da lì c'è questa casa che eviti di solo per la magna. Non puoi ritirare dopo le sigarette né altre cose, e dura per 3 anni. Bene, adesso aspettiamo che qua cuocia qua, poi gli correggo il sale se necessario. È un casino, Antone, quando devi chiedere qualcosa all'INPS o di queste cose che ti spettano, è sempre una rottura di balle, fanno di tutto per andartene. Ehi, 2.400 euro, ma non mangio penso io, 2.400, fatti i conti, mi hanno pagato gennaio, febbraio e marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, e non avrebbe un cazzo, niente, anzi, hanno avrebbe proprio 5 giorni prima del 9, hanno preso e mi hanno rubato tutto, capito, direttamente lì, infatti non ho fatto neanche il corso, se la piglia il culo adesso il corso. Per il momento lascio quello l'altro che ciò che mi danno la prossima settimana, dopodiché a gennaio vedremo la domanda da fare, se conviene uno o se conviene l'altro, dato 55 anni ce li ho qui, rientro per forza, questa è per 8 mesi, l'altra invece è per 18. Bene, certo senza smettere è brutto, ma vabbè, poi non avevo trovato, te l'avevo detto là, non so, non ho trovato ancora il famoso, tutto il kit per saldare, sparito nel nulla, ma a me sta venendo il dubbio che per sbaglio non ci abbia buttato la busta, credendo che fosse roba vecchia, mia zia, te lo immagini, mi devo ricomprare lo stagno, il saldatore, tutti quelli, le spugnette, tutti quegli accessori, aspetta che sta suonando il timer della pasta, dai, a dopo. Ehi, va bene. Guarda che io sono acceso sia qua che là, in PMR, ok? Ciao. Ehi, d'accordo. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Sto ultimando la cottura e poi il sugo. Cottura 10 minuti. Aspettati l'acqua della pasta con un cucchiaino piccolino, e tra l'altro pure ci vuole appena pensare. Comunque l'ho gustata, sembra giusta, meglio sempre meno che di più di sale. Poi il resto lo fa il sugo, buono, sugo con salsiccia e funghi della Barilla, sugo pronto. Ah, quello già è buono, sì. L'ho assaggiata anch'io quella, e l'ho fatta pure dello spin. Quella con la salsiccia era buona, adesso ho fatto che te la ricopri la salsiccia tua e te lo fai tu. Sugo, ci vuole molto. Quella salsiccia che fai dipende dallo spin, adesso è buona, come si deve, come cristiani. Sì, potrei farlo anche io, sai perché? Perché i funghi in realtà non li senti, il sapore del pomodoro copre l'odore, l'aroma del fungo, ma se tu metti, sono sicuro che mettendo i funghi freschi è come se c'è il sapore, e quelli sono mummificati i funghi, capito? Ma se li metti freschi è come se è buono, invece la salsiccia si sente, quello sì. Sì, la salsiccia si sente, sì, è buono. Fatela anche tu, non è che ci voglia grande affa, compri quella salsiccia dello spin, non costa neanche molto, fare costa 2 euro, 2 euro e 20, è anche buona, è morbida, puoi anche mangiare senza fare il sugo, abitato, non ci vuole neanche a preparare un sugo. Basta che fai soffritto, ma vorrei che soffritto la cipolla è pronto, quindi ci butti la salsiccia dentro, la fai cucinare un pochettino appena quando è appena rosolata, vedi ci butti il sugo sopra, una volta che sparisce l'acqua già lo sai del pomodoro, e la assaggi, naturalmente ci devi mettere il condimento, rosmarino, origano, capito, per dargli un pochettino più di sapore. Eia, sto scolando, la sto scolando, a dopo, ciao, tanto mangiamo adesso. Vabbè, d'accordo. Ora, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, prova, ok. Anthony. Prova, sa, ora la cipolla.